tutte le domeniche, tutto l'anno in bicicletta. Sindaci, vedete un po' voi, io mi rendo conto che non avete vita facile, però mettetemi la mano sul fuoco. Buongiorno, grazie per avermi dato la patrimoniale. Qui. Incredibile. A domani. No, sì. Oggi è venerdì. A lunedì. Quindi anche oggi parto con tre domande. Con quante esattamente? Non ho capito. 800240024 continuta. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Perché a noi piace questa versione rock dell'inno di Mameli, Nicoletta. Anche a me piace molto. È bello, questa modalità. So perché? Cara mia, noi siamo patriottiche a modo nostro. Intanto perché noi non siamo lente, siamo rock, e quindi oggi iniziamo così, ma anche perché la finanza può essere a modo suo un po' patriottica, e nel nostro programma proviamo a renderla anche un po' rock. Per questo abbiamo sentito la versione rock dell'inno di Mameli. Io sono preparata. Quando parliamo di risparmio e di patriottismo, parliamo del BTP Italia. Brava. Ne avevamo parlato in autunno e so che ce n'è uno nuovo anche in questi giorni. Tu ormai sei preparatissima, e visto che sono sicura di quanto sono preparati anche i nostri ascoltatori, vado là subito a coinvolgerli con una domanda. Vediamo chi è il primo che ci scrive in un tweet all'account @cuoredenari. Cosa significa la sigla BTP? Vediamo chi ha il tweet più veloce, perché oggi a Cuore Denari giochiamo un po' anche con le sigle. Ma noi torniamo a questa emissione primaverile del BTP Italia. Anche la primissima emissione di questo titolo di Stato era stata in primavera. Arrivano come le rondini i BTP. Nel marzo del 2012 la prima, in uno dei momenti per la verità peggiori della crisi recente, il periodo dello spread alle stelle, quando c'era bisogno di stimolare il patriottismo degli italiani, se vogliamo chiamarlo così, in un momento in cui tutti scappavano via e non compravano più il nostro debito, anzi si liberavano dei titoli italiani. Per questo fu pensato questo titolo di Stato, questo buono, che ha degli aspetti molto convenienti, in particolare per i piccoli risparmiatori, quelli che al loro gruzzolo messo da parte con tanta fatica negli anni ci tengono. Il BTP Italia non fa battere troppo il cuore delle famiglie, perché presenta una serie di garanzie, ma è anche stato capace di attirare molti denari da parte degli investitori istituzionali. Buongiorno a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, bentornato. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E allora è così, tra l'altro ieri boom di sottoscrizioni, 6,7 miliardi nella prima giornata di collocamento. Oggi il Tesoro, se il trend continua in questa maniera, potrebbe decidere anche la chiusura anticipata, però teoricamente c'è tempo fino a domani per gli investitori che si chiamano retail, quindi piccoli risparmiatori, per aderire. Come stanno andando le cose? Ma oggi è partito un po' più tranquillo, siamo a circa 1 miliardo, per cui comunque c'è sempre interesse, insomma. Per cui devo dire, tenendo conto le tipologia che avevate già anticipato di questo nuovo collocamento, che ha delle alcune novità, per cui la sottoscrizione prima solo per il retail, ieri, oggi, eventualmente domani, però con la possibilità che oggi il Tesoro decida di chiudere anticipatamente, credo che forse non aspetterai domani, insomma, qualora si fosse interessati a fare la propria adesione. Sì. Vorrei subito ricordare ai nostri ascoltatori il numero verde, l'800240024, se volete chiederci dei chiarimenti su questa emissione del Tesoro italiano. Poletto, tra poco torneremo da lei per avere i dettagli di questa emissione, sottolineando gli aspetti più importanti per i piccoli risparmiatori all'ascolto. Dopo domani mi ritagliano. Guarda che stamattina non ce la facciamo. Sai, comunque un ascoltatore ci ha scritto. Cosa? Perché non avete fatto il lancio con l'Anico e Deborina? Cambio radio. Hai capito, Deborina? Adesso andiamo di là in redazione a bacchettarli tutti quanti. Ma noi abbiamo portato anche un altro amico della nostra trasmissione. Ti lascio l'onore di presentarlo. Allora, innanzitutto è torinese. E questo è già un una punto, garanzia. Poi, è un rendimento minimo garantito, come potremmo dire per il titolo poi di Stato in questione. Un bell'uomo, ecco. È simpatico, è elegante, ne sa, ma soprattutto è il mio professore, quindi riesce a far capire le cose difficili anche alle capre come me. E adesso sono diventata preparata. Lui è il mio professore, e lo salutiamo, Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente e titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente, certo. Lupotto e Partner. Wow! Buongiorno, ben ritrovate. Buongiorno, come mi trova? Riesce a farmi arrossire anche radiofonicamente. Io sono la donna di cuore, sono qua apposta. E tra l'altro ti ha portato anche dei signori grafici, perché faremo un punto anche sul portafoglio di Nicoletta, quello che virtualmente abbiamo cominciato a costruire ad inizio palinsesto. Io la butto lì, io sto diventando un buon partito. Io la metto lì, 800 24 00 24, e il merito è tutto del mio maestro. Benissimo. Il dottor Lupotto. Cercheremo di capire se nel portafoglio virtuale di Nicoletta, anzi lo ricorderemo, se sono stati inseriti dei BTP Italia nelle precedenti emissioni, e anche se vale la pena adesso inserire anche questo nuovo prodotto, appunto, che il Ministero dell'Economia sta collocando in questi giorni. Ma con Gianni Lupotto torneremo anche sui titoli di Stato in generale, e parleremo anche della diversificazione dei nostri investimenti e della costruzione di un buon portafoglio. Perché sorridi? Perché ti piace? Perché c'è sempre, voi diversificate sempre, vero? Sì, prof? Sì, parleremo sì di questo BTP, questo e di altri pallino. BTP, sì, e anche di altre cose, per costruire un portafoglio sempre equilibrato. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, le domande sul BTP le potete fare tutte al nostro numero verde. In generale vi affidate ai titoli di Stato, è una consuetudine nel modo di investire risparmi nella vostra famiglia, lo trovate sicuro e conveniente, avete dei dubbi? I nostri ospiti potranno rispondere alle vostre domande. Prenotatevi e intanto continuate a twittarci il significato della parola BTP. Misurati la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia. E se la donna di denari vi dice BTP, io come donna di cuore vi dico BMI, Body Mass Index, o indice di massa corporea, un parametro che permette di ottenere una valutazione generale del proprio peso corporeo. Mette in relazione con una semplice formula matematica l'altezza con il peso, si ottiene dividendo il peso in chili con il quadrato dell'altezza espressa in metri, e si ottiene un numero che ci permette di classificarci in sottopeso, normopeso, sovrappeso. Quindi l'ho fatto. L'hai fatto? L'ho fatto, sono a 23,13, quindi sono normopeso. Magnifica. Nonostante le mie convinzioni, che invece mi portano a credere tutt'altro. Tu l'hai fatto con la calcolatrice? Sì. Va bene, potevi anche andare su internet, perché ci sono anche dei siti dove tu imposti tutti i tuoi numeri, boom, esce fuori. Oppure, cara Deborina, puoi scegliere anche una formula molto più semplice, che secondo me alla fin fine ai medici piace anche di più: la circonferenza addominale. Basta passare un centimetro da sarta intorno alla pancia, all'altezza dell'ombelico. Fatelo anche voi, naturalmente, se siete a casa e non in macchina. Anche in questo caso ci sono dei valori da non superare per le donne e per gli uomini. Ne parleremo a partire dalle 11:40-45 con il dottor Massimo Gualerzi, che voi conoscete bene, è intervenuto tante volte a Cuore Denari, collabora anche con il nostro Daily Lab, è un cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e lavora anche all'Università di Parma come esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Voi fate i vostri conti e chiamateci. Intanto io vi dico che noi non ci limiteremo a dirvi se siete normopeso o sovrappeso, questo lo sapete già da soli, vi daremo consigli utili, semplici e soprattutto efficaci per rientrare nei parametri giusti. Quindi oggi tutte le cose da sapere e da fare, e anche le cose da evitare, perché vogliamo convertire la ciccia in muscoli. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano. Torniamo Torniamo a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana, per tornare a spiegare ai nostri ascoltatori le caratteristiche del nuovo BTP Italia, che è in collocamento da ieri, un titolo italiano, Poletto, dagli intenti che abbiamo definito un po' patriottici, perché questo BTP ha attirato anche gli investitori internazionali, oltre che le famiglie italiane. Riepiloghiamo: quante emissioni ci sono state dal marzo del 2012 e a quanto ammontano in tutto i titoli collocati in soldoni, il tesoro quanto ha incassato fino a questo momento? Beh, le emissioni sono state 5, questa è la sesta. Sono stati classati 66 miliardi, per cui direi un importo molto importante. L'ultima di novembre è stata quella di maggior successo. 22 miliardi, esatto. Devo dire che la più grande emissione mai vista in Europa, che si è chiusa in un giorno e mezzo, insomma, fatta sul mercato di borsa. Tra l'altro, in molti si sono chiesti in queste settimane come mai in questo periodo i titoli di Stato stiano riscuotendo sul mercato sempre maggior successo, i rendimenti continuano a scendere, alleggerendo quindi anche il peso della spesa per interessi che lo Stato paga appunto sul suo debito pubblico. Magari, se poi vorrà, ci commenterà anche questo aspetto, ma le chiedo di andarci invece a spiegare le caratteristiche del BTP Italia in questa emissione, perché ha qualche novità rispetto ai titoli precedenti. Sì, come anticipato precedentemente, sono sostanzialmente due le caratteristiche nuove rispetto alle 5 precedenti. Prima di tutto la scadenza. Questa emissione ha una scadenza più lunga, invece di 4 anni, 6 anni, per cui scade nell'aprile 2020 questo nuovo titolo in collocamento in questi momenti. Il collocamento è stato diviso in due parti. Come dicevamo, da ieri fino a domani, salvo chiusura anticipata, solo ed esclusivamente per gli investitori retail, mentre la giornata del 17 sarà un collocamento destinato solo a investitori istituzionali, mentre nei precedenti erano tutti insieme. Queste sostanziali sono le due maggiori caratteristiche. Ma dal punto di vista dell'investitore retail nulla cambia, perché ieri, oggi, eventualmente domani può sottoscriverlo senza pagare alcun tipo di commissione. Esatto, perché poi ecco l'importante. E se lo detiene nel suo portafoglio fino a scadenza, qualora sia una persona fisica, riceve anche il cosiddetto premio fedeltà di quanto? Del 4 per 1000. Rendimento minimo garantito? È 1,65. Più l'inflazione. Certo. Matteo da Verbania chiede: ha senso acquistarlo ora quando la deflazione è alle porte? Ma allora, questo è un dato importante sempre da tenere da conto, però probabilmente in questo momento si sta anche scommettendo su un eventuale, sperando in una ripresa economica, per cui possibile tendenza di inflattiva in aumento, per cui si prende a livelli molto bassi e si avrà la rivalutazione nei prossimi 6 anni. 800240024, intanto ci state scrivendo, spiegandoci la sigla che appunto abbiamo lanciato all'inizio, che cosa c'è dietro la sigla BTP. E Nicoletta, nel tuo portafoglio questi titoli ci sono? Ci sono, vero? Sì, certamente. Li ha messi Gianni perché Lupotto. Noi diversifichiamo. Ma mi aveva chiesto, mi ha detto: li mettiamo i BTP? Io ho detto: dai, mettiamoli, vero? Sì. Ma in realtà la tentazione che ha adesso, anzi forse sarà una scelta concreta in questo portafoglio virtuale che Lupotto farà, è di venderne uno sottoscritto in precedenza per appunto inserire il nuovo BTP. Perché questa scelta? E spieghiamo il perché. Perché abbiamo sottoscritto, Nicoletta, a novembre, quando abbiamo iniziato il nostro portafoglio, i BTP della quinta emissione. Sì, quelli del collocamento boom, quelli che hanno raccolto 22 miliardi. Del collocamento boom, che sono andati molto bene, si sono avvantaggiati anche della riduzione degli spread, quindi quello che noi abbiamo sottoscritto ad un prezzo di 100, sì, adesso vale oltre 103. Sì. Questo ci consente di prendere beneficio anticipato, è come se ci portassimo a casa l'inflazione dei prossimi anni in modo anticipato, sì, e utilizziamo i proventi di questa vendita per sottoscrivere in questi giorni in collocamento il nuovo BTP, allungando leggermente il debito, ma diciamo con la speranza di ripetere questa operazione positiva nei prossimi mesi. Insomma, chi ben comincia metà dell'opera. Esatto. Noi abbiamo cominciato benissimo, professor Lupotto, e quindi continueremo così. Tra l'altro, sì, non ci facciamo mancare nessuna novità. Gianni Lupotto ha detto a Nicoletta che gli sta un pochino allungando la durata del debito, che è un po' la scelta anche del Tesoro italiano, no, Pietro Poletto? Il fatto di in questo caso mettere in campo un titolo che dura 6 anni a differenza degli altri titoli che ne duravano 4, sottintende anche una strategia precisa del Ministero dell'Economia. Ma direi sicuramente sì, ma anche secondo me, anche visto la struttura dei tassi attualmente molto bassi, fortunatamente per il paese, per il grosso debito che dobbiamo finanziare, il fatto di avere una scadenza più lunga ha consentito di avere una cedola magari un pochino più appetibile rispetto alla struttura dei tassi che sono molto bassi in questo momento. Ricordiamo che l'ultima asta botta è stata collocata a 0,50 o poco più, insomma, per cui il rischio che ripetendo ancora una scadenza a 4 anni anche il rendimento minimo garantito sarebbe stato molto basso e ancora meno appetibile. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori che stanno intanto cominciando ad indicarci la loro conferenza addominale, Nicoletta, sì. Per cui sono pronti a farsi fare l'esame della massa corporea. C'è chi usa il metro da sarta e quindi si misura la circonferenza addominale, chi certo. Invece prova a calcolarsi il nostro l'indice di massa esatto. corporea. Intanto Marco, il fante di picche che non manca mai appunto con le sue domande, chiede se questi BTP finiranno in mani straniere, e la mette un po' con una connotazione della sua domanda negativa, però magari chiedo anche a Gianni Lupotto un commento su questo, se ritiene non è che sia proprio una brutta notizia il fatto che gli investitori internazionali sottoscrivano il nostro debito, no? In modo tale che vada un po', è un po' il concetto della diversificazione, è bene anche che i nostri titoli vadano su tutti i mercati. Beh sì, non la vedrei una cattiva notizia, è un sintomo di fiducia dei paesi stranieri che ritengono che dal momento che i rendimenti dei BTP italiani, ancorché ridotti rispetto al passato, sono ancora più interessanti rispetto a quelli per esempio di Francia e Germania, possono ritenere certo. interessanti i rendimenti, quindi la vedo una buona notizia, un segno di fiducia per l'Italia. Banche straniere che eventualmente potranno sottoscrivere il BTP Italia giovedì. Poletto, perché c'è stata in questo caso questa decisione di fare il collocamento in due fasi distinte, prima per il pubblico indistinto e poi per gli investitori istituzionali, e magari spieghiamo anche a chi non ha confidenza con il gergo finanziario che cosa sono gli investitori istituzionali. Ma intanto perché questo prodotto è stato concepito dal Ministero del Tesoro proprio per l'investitore privato, l'investitore retail, per cui poi visto il successo delle ultime emissioni sono intervenuti anche investitori istituzionali, però in questa modalità qua il Tesoro ha voluto privilegiare l'investitore privato, per cui prima in questi primi giorni di collocamento accetta tutte le richieste da parte degli investitori privati e si riserva poi col collocamento istituzionale di andare a dosare un po' le emissioni, tant'è che nell'ultimo giorno si riserverà la possibilità di chiudere anticipatamente nel corso della giornata con un preavviso anche di solo mezz'ora. Allora, le 11.25, volevo controllare un po' l'orario per sì. capire fino a che punto dobbiamo andare. Quanto conta il livello dello spread sulla individuazione, Poletto, del rendimento minimo garantito per questo titolo? Ma sono tante le variabili che contano, lo spread, i tassi, l'andamento dell'inflazione, gli altri titoli analoghi sul mercato dell'inflazione europea, gli altri titoli già emessi, i BTP analoghi di analoga scadenza senza l'indicizzazione all'inflazione, sono N le variabili che devono essere considerati per poter avere un pricing corretto che consenta da un lato il giusto equilibrio tra la giusta remunerazione da chi intende sottoscrivere e dall'altro non dover costare troppo per l'emittente Tesoro. Insomma. Gianni Lupotto, perché non ha mai sottoscritto un titolo di Stato e fosse interessato in questo momento a fare un investimento di questo tipo? Secondo lei è bene che inizi col BTP Italia o va bene un altro titolo, un bot, magari con una scadenza più ravvicinata? Beh, si dice da qualcosa bisogna pur cominciare e direi che il BTP Italia in questo senso ha diverse caratteristiche interessanti. Anzitutto bisogna che il risparmiatore abbia bene chiaro che il suo orizzonte temporale in questo caso con questo acquisto è 6 anni. Però diciamo ha delle caratteristiche che consentono per l'appunto, grazie alla sua indicizzazione, un minor rischio rispetto ad un titolo a tasso fisso a 6 anni, proprio perché in una ipotesi di incremento dei tassi e di conseguenza dell'inflazione le cedole seguiranno. Vorrei rispondere anche a Marco sì, sul tema della deflazione è che attenzione che questi titoli in caso di deflazione comunque non restituiscono un capitale decurtato, ma restituiscono comunque il capitale sottoscritto inizialmente. Quindi in un certo senso hanno anche una protezione in caso di deflazione pronunciata e protratta nel tempo. La deflazione che è una caduta appunto dei prezzi, una caduta dei prezzi. Leggo un messaggio di Paolo da Milano. Quando nei momenti di maggior crisi BTP rendevano al 6%, tutti a sconsigliarli. Adesso che rendono una miseria, tutti a consigliarli. Misteri. Sì, mi permetto di dire che io ero una voce fuori dal coro, perché all'epoca quando i BTP rendevano il 6%, anche il 7%, noi abbiamo suggerito, sempre in un ambito di una adeguata diversificazione, di acquistare o eventualmente incrementare le quote di BTP, e questo ha avuto evidentemente un buon successo. Devo dire che chi ha avuto coraggio, un po' di pelo sullo stomaco in quel periodo, affari sicuramente ne ha fatti. È anche vero che un rendimento così alto di un titolo di Stato nasconde una potenziale l'insolvenza di un paese, non parlo dell'Italia, può riguardare ogni altra economia, per cui è chiaro che si suggerisce anche una certa cautela. È corretto, e soprattutto in quei momenti quando c'è grande tensione, grande crisi, si verificano delle grandissime decorrelazioni di prezzo, e quindi era possibile a quei tempi vendere e comprare BTP, quindi sempre della stessa natura ma con prezzi e rendimenti completamente differenti, diciamo, facendo anche dei guadagni da trading, diciamo, da arbitraggio. Sentiamo i mercati. Chi è? Sentiamo i mercati. Ma chi è il nostro ascoltatore di ieri? Non me lo ricordo, non me lo ricordavo. Ma guarda che oggi sti ragazzi ce ne hanno preparate di sorpresine. Andiamo. Vi regalo un BTP Italia. Cuore e denari. I numeri non li sopporto più. La matematica che mi perseguita. E quanti numeri e quanti conti anche con questi BTP Italia. Tra poco con Gianni Lupotto faremo un calcolo di convenienza per capire come un piccolo risparmiatore può valutare, quindi se acquistarli può essere la cosa giusta, tanto che voi valutate la convenienza dei BTP e chiamate il nostro numero verde per parlare con i nostri esperti, 800 24 00 24, vi do anch'io qualche numero. Se vi resta tempo, ma solo se vi resta tempo, provate anche a misurare la vostra circonferenza addominale, oppure provate a calcolare il vostro BMI. Ne parleremo tra poco con il dottor Gualerzi, a cui chiederemo anche di commentare questa dieta che è stata ideata da quella che è stata definita la donna che sussurra al metabolismo e che piace molto anche ai VIP. Quella dell'aceto? No, è una dottoressa che si chiama Portnoy, che suggerisce che per svegliare il metabolismo e quindi per ridurre la massa grassa a favore di quella magra sia utile una dieta a rotazione. Ne parleremo, ti fa fare 2 giorni con carboidrati, diversifica con pasta, la dieta, brava, con pasta e verdura, altri 2 giorni carne e verdura, poi sabato e domenica mescoli un po' e ripeti. Vogliamo saperne di più, perché io sai che sono dell'idea che la dieta non si dovrebbe stare a dieta, ma adottare uno stile alimentare corretto, che ci faccia stare bene, per cui queste imposizioni, mangia il lunedì così o il venerdì così, mi sembra che alla fine poi magari non siano così facilmente inseribili nella nostra. Comunque continuiamo con le nostre sigle. Sai che tante volte ci chiamano anche gli ascoltatori con delle vite piuttosto frenetiche, qualche volta seguire anche dei regimi alimentari che pur potrebbero sembrare semplici da seguire come quello che ci indicavi, in realtà magari complica la vita a qualcuno. Ci sono tanti aspetti da considerare. Intanto iniziamo a considerare quello che ci dicono le nostre sigle. BTP e BMI. 800 24 00 24, numero verde che andiamo. Ha formulato Franca da Torino. Franca, un'altra torinese, buongiorno. Esatto, avete stamattina, vi siete messi d'accordo, Franca. Non ve lo diciamo, ma siamo tutti cugini, Franca. Franca, buongiorno. Che cosa significa? Cosa significa BTP? Pronto? Pronto, ci siamo. Franca. Pronto? Franca, sì, l'abbiamo. Sono Franca. Sì. E volevo rispondere. Sì. Sono i buoni pluriennali del tesoro. Allora, noi premiamo la buona volontà, non è corretto perché non è pluriennali, Franca. E com'è? Come dice Dario, che su Twitter è stato il primo a scrivere e a dare la risposta giusta. Poliennali si dice. Però noi lasciamo fare lo stesso la sua domanda ai nostri interlocutori. Franca? Franca è svenuta. Franca, con chi sta parlando lei? Che non la sento pronta. Sto sentendola un po' la radio. È la vostra voce che arriva un po' dopo. Allora, vabbè, comunque, insomma, Franca, lei ha prenotato questi BTP Italia? Sì. E quindi? Tramite la banca. Vabbè, allora, insomma, pensavo che lei avesse una domanda, non ce l'ha, non importa. Vabbè, Franca, dai, grazie. Il libro glielo mandiamo, sì, lo sì, stesso sì, no, come lo al che... nostro amico Dario che ci ha mandato esatto. Il primo tweet con la risposta giusta. Bisogna dire poliennali, che però, dai, poliennali, pluriennali, su, è la stessa cosa. In realtà Franca, se non avevo capito male dalle anticipazioni che aveva fatto alle nostre colleghe del centralino, voleva sapere, ha fatto la prenotazione in banca, voleva sapere se la banca li assegna o meno. Pietro Poletto, vengono accontentati tutti con queste missioni? Sì. In queste giornate di collocamento retail vengono accettate tutte le richieste. Ecco, quindi non è un'operazione della quale bisogna correre a prenotarsi, altrimenti chi tardi arriva male alloggia. Andiamo a Marco. Deborah, l'unico tema è che potrebbero chiudere anticipatamente, per cui sì, domani certo. Potrebbe non essere più una giornata valida. Però ecco, se poi... Franca ha prenotato, ha già fatto la sua adesione in banca, lei deve averli. Ecco, esatto. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, vabbè, c'ho un ritorno. Ma tutti stamattina? Come, allora, abbassi la radio. Abbassi la radio, Marco. Allora, sulla mia voce. Senta, io, vabbè, so benissimo di cosa state parlando, buoni del tesoro poliennali. Bravo. Poi ci sono i CTZ, vabbè, insomma, tutte queste cose. È pronto, è preparato. Però, la mia domanda era specifica. Nel 2004, più o meno quando gli Stati Uniti invasero l'Iraq, no? L'hanno fatto l'Iraq. Ok, sì. Prego? Sì, non avevo capito che cosa avesse detto relativamente agli Stati Uniti. Quando invasero l'Iraq? No, quando ci fu la guerra dell'Iraq, quella... Guardi, voglio proprio sentire che relazione c'è con i titoli di Stato. Sentiamo. Io lo sto per dire. Allora, mi venne consigliato di comprare bond turchi, che allora più o meno avevano un rendimento del 10%. Io purtroppo sempre a causa del fatto che sono in minoranza in famiglia non sono stato ascoltato e vorrei sapere poi se questi bond effettivamente, perché non ho avuto più notizia, hanno avuto sì, effettivamente insomma, quel rendimento. Grazie Marco, la sentiamo malissimo, aspetti lì. Eccoci ritrovati in diretta. Allora Marco ci ha raccontato che nel 2004 avrebbe desiderato tanto investire nei bond turchi perché rendevano molto, rendimento del 10%. Ricordo anche che l'Argentina, quando tutti sono andati a correre a sottoscrivere i titoli di Stato di quel paese, rendevano 7-8%, poi il paese è andato in default, in bancarotta. Allora, detto questo, è chiaro che sul mercato, Gianni Lupotto, ci sono tante occasioni di investimento, soprattutto su certi paesi che hanno determinate caratteristiche politiche. Chiaramente per essere attraenti sul mercato devono riconoscere rendimenti molto alti. Sì, però attenzione, perché sottoscrivendo bond in lira turca, perché di questo stiamo parlando, con questi alti rendimenti si è esposti al rischio cambio. Nel 2004, quando gli fu dato il suggerimento al nostro ascoltatore, il cambio euro-lira turca era 1,55. Adesso il cambio euro-lira turca è attorno a 3, quindi ha perso metà del suo valore. Quindi possiamo dire che l'investimento è stato comunque conveniente, perché anziché il 10% ha reso circa in euro il 5%, ma è un rendimento non molto differente da quello che si sarebbe potuto ottenere con meno volatilità su titoli italiani. E poi con il senno di poi, insomma, si sarebbero potute fare tante altre scelte alternative alle bond turco, che magari avrebbero reso lo stesso soddisfatto. Marco, se si guarda indietro è chiaro che poi le opzioni sarebbero state diverse. Roberto da Reggio Emilia, buongiorno. Roberto. Sì, buongiorno. Senta, io chiamavo perché ho sottoscritto dei BTP Italia a novembre dell'anno scorso, 2013. Sì, sì. e con un rendimento del 2,25 sì. più l'inflazione. Sentivo prima il vostro esperto che diceva che in realtà converrebbe vendere i BTP Italia a novembre e acquistare nuovi, però onestamente mi sfugge la razza. Insomma, sì, Roberto vuole copiarmi un po'. Esatto, il tema è: lei l'ha scelto per Nicoletta questa opzione o vale in assoluto secondo le sue varrebbe, strategie? Vale in assoluto se uno accetta di allungare il proprio credito nei confronti dello Stato. E spiego al nostro ascoltatore il perché di questa apparente contraddizione, perché lui probabilmente fa riferimento al rendimento garantito 1,65 contro il 2,25. In realtà il BTP Italia che il nostro ascoltatore ha acquistato l'ha acquistato a 100 e adesso vale 103 qualcosa, quindi in realtà ha maturato un profitto, e se noi calcoliamo il rendimento reale al prezzo attuale fino alla scadenza di questo BTP, di quello che ha lui, è inferiore a 1,65, il calcolo empirico attorno all'1,20, 1,15, 1,20. Quindi in realtà conviene vendere quel BTP, maturare quindi un profitto che diciamo è già sicuro, e utilizzare i proventi per acquistare questo nuovo BTP. Però lei qua mi scompagina un po' le carte, le convinzioni del Ministero dell'Economia, che invece ha studiato questi collocamenti proprio per fare in modo che le famiglie o i sottoscrittori mantengano per tutta la durata questo titolo. Non so, Poletto vuole intervenire sulle strategie indicate da Gianni Lupotto. Poletto, stamattina abbiamo anche dei cognomi. Lasciamo Lupotto che è un esperto, non mi permetto di contraddire Gianni. Ah, niente, beh, lui non vuole compromettersi appunto con una contraddizione. No, voglio sottolineare che naturalmente non c'è nulla di male a mantenere gli investimenti precedenti in portafoglio, oltretutto perché c'è un premio fedeltà alla fine. Infatti, quindi potrebbe essere utile incrementare eventualmente. Dal punto di vista tattico potrebbe essere interessante. Diciamo, abbiamo suggerito una ipotetica tattica nel caso in cui uno, ricordiamolo, volesse allungare il proprio investimento. Se volesse mantenere, quindi utilizzare i soldi alla scadenza naturale del precedente BTP, quindi fra 3 anni, naturalmente questo sistema non può essere applicato. Abbiamo anche l'ultimo Pietro, penso, sì, che sia l'ultima facciamo telefonata, dai, di oggi. Pietro, un altro Pietro da Milano. Sono qui. Eccola. Vi ascolto tutte le mattine. Vuole candidarsi per diventare il nostro ascoltatore annuncia traffico? Sì. Allora bene, prima la domanda e poi andiamo. Vada. Ecco, volevo chiedere, io sono stato in banca a sottoscrivere BTP Italia, sì. Nell'ultima emissione, quella del mese di novembre, ne avevo sottoscritti parecchi. Adesso, visto che c'è stato questo aumento, c'è una bella plusvalenza del 3%, lo volevo vendere. E l'impiegata della banca mi ha detto che non mi conviene perché rischierei di perdere. E perché? Cioè... Non lo so, io lo volevo vendere perché è una cifra abbastanza buona. E allora, portare a casa la allora Pietro, io dico che chi investe in un BTP, magari proprio comprarla a novembre per venderlo 3 mesi dopo, sicuramente è una scelta che va anche meditata. Non lo so, cioè non si può comprare un titolo di Stato con l'obiettivo di venderlo come se fosse un titolo del settore tecnologico in 3 mesi. No, magari il nostro ascoltatore non l'aveva acquistato con questo obiettivo. Però come le cose sono andate bene. Sì, uno dei miei primi maestri nel campo degli investimenti mi diceva che bisogna sempre portare a casa i profitti inaspettati. Questo è un classico profitto inaspettato, e quindi è possibile portarlo a casa parzialmente magari. Insista Pietro allora con la banca se vuole fare questa scelta. Pietro, faccia il nostro uomo del traffico. Va bene. Sta per andare in onda il traffico, tutti attenti al traffico. Cuore e denari. Abbiamo terminato la parte di Cuore e Denari dedicata al BTP Italia. Salutiamo Gianni Lupotto. Grazie. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci. Tenga caro il portafoglio di Nicoletta, che poi porta a prendere me l'aperitivo con le plusvalenze, cara mia. È vero, come mi ha detto che il suo maestro diceva, bisogna sempre tirare a casa profitti inaspettati. Inaspettati. Di qualunque genere. Lasciamo allora, la domanda così aperta. A questi virtuali che si arrivano. Grazie a Pietro Poletto di Borsa Italiana, buona giornata. Grazie a voi. A presto. Buongiorno, grazie. Andiamo a misurarci il giro vita, cara dopo mia. Dopo il BTP, il BMI. Devo dire che il mio maestro deve avere un BMI perfetto. E con questo chiudo, finisco con i complimenti. Sennò la moglie del mio maestro giustamente un attimo si innervosisce e lo mette all'ingrasso. Un piccolo difetto all'uomo moderno è raro, che di vedere esemplari d'uomo moderno con un piccolo difettuccio, quello, non sempre, dell'accumulo di adipe nella fascia addominale. È raro, per carità. L'uomo moderno accumula questo grasso, no? La sugna l'uomo la accumula tutta qua. Ed eccoci insieme al dottor Gualerzi che ci ha raggiunto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. La ripresento per chi si fosse messo in contatto con noi solo oggi o sentisse per la prima volta Cuore Denari, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Allora, dopo aver parlato di BTP, lei è preparato sui BTP, dottor Gualerzi? Insomma, qualche lacuna, diciamo. Allora, lasciamole lì, però si può scaricare la puntata. È arrivato il momento di parlare del nostro BMI, una misurazione che aiuta ma non convince del tutto, tanto che è stata surclassata, diciamo così, dalla misurazione della nostra pancia. Dato che oggi vogliamo giocare con le sigle, possiamo chiamarla MCA, misura circonferenza addominale? Direi di sì, tanto ormai le sigle vanno e gli acronimi vanno di moda, quindi diciamo così. Allora, molti dei nostri ascoltatori hanno già dato i numeri, scrivendo i loro numeri al 349-238-6666, li invitiamo a farlo anche naturalmente chiamando il nostro numero verde, ma molti, dottor Gualerzi, chiedevano il suo parere riguardo all'attendibilità dell'indice di massa corporea o body mass index, come lo vogliamo chiamare. Dottor Gualerzi, è attendibile o è meglio il metro della sarta? Beh, diciamo che il BMI o Body Mass Index è un indice molto utile, veloce da calcolare, che fino a qualche tempo fa era fatta da padrone, insomma, nelle misurazioni. Tuttavia, diciamo che soprattutto quando viene riferito alle persone obese, oppure molto alte e molto basse, perché questo parametro tiene conto della costituzione fisica, longilinea, media, robusta e delle masse muscolari del soggetto, quindi queste non vengono valutate bene. Per chi però si è divertito a calcolarlo, ha preso la calcolatrice, è andato sul sito, diamo qualche indicazione di massima del rapporto tra il peso espresso in chili e l'altezza al quadrato espresso in metri, abbiamo ottenuto un numero come ha fatto Deborah. Leggiamolo e interpretiamolo, dottor Gualerzi. Sì, nel senso che adesso non so, volete dirmi voi il vostro, allora, così facciamo sapere a tutti. Sì, allora, Deborah ha trovato 23, vero? 23 e 13, qualcosa del genere, sì. Ecco, il solito è perfetto, è la prima della classe. Diciamo che da 18 e mezzo circa 25 parliamo di persone normopeso. Sotto i 18,5 siamo sul sottopeso. Invece cominciamo a parlare di sovrappeso sopra i 25, sopra i 30 abbiamo un'obesità che comincia a essere importante, quindi insomma questi più o meno sono i cutoff. Quindi il numero chiave è 25, per non fare tanta confusione con i numeri, vero? Sotto i 25 andiamo bene, basta non essere troppo sottopeso, perché poi sappiamo che essere troppo magro è un problema. E mentre sopra i 25 iniziamo un po' a rizzare le antenne. Allora diamo anche i numeri per la circonferenza addominale, perché ci sono dei numeri che ci mettono al sicuro, perché lo ricordiamo sempre che il peso non è solo un problema estetico ma anche soprattutto di salute, perché il grasso addominale è un grasso cattivo che nuoce alla nostra salute ed è un fattore di rischio per il nostro cuore. Avendo il dottor Gualerzi in linea, Deborah naturalmente fa il cardiologo, di cuore ne dobbiamo parlare. Dottor Gualerzi. Sì, diciamo che innanzitutto diciamo così sgombriamo il terreno da dubbi, no? Un medico non deve far dimagrire un paziente, no, per essere esteticamente migliore, qualche chilo di troppo delle volte o qualche chilo nei posti giusti vanno anche bene obiettivamente, ma il medico deve farlo vivere di più e meglio un paziente e per fare questo bisogna combattere quel grasso che è veramente dannoso e uno di questi è proprio quello viscerale, cioè quello che si accumula sotto il piano muscolare addominale, quindi non tanto la maniglietta dell'amore, ma proprio quel grasso che si va a accumulare all'interno dei visceri e che si misura in un modo abbastanza approssimativo ma veritiero con la circonferenza ombelicale, cioè facendo passare il classico metro da sarta sopra le ossa del bacino, quindi nelle spine iliache, attraverso l'ombelico, quindi misurandosela in pieno in questa posizione. Le donne non dovrebbero avere più di 80 e gli uomini non più di 94. Anche qui il rischio, parliamo di rischio, sopra gli 88 per le donne, centimetri sopra 102 per gli uomini. Dottor Gualerzi, oltre alla calcolatrice, al metro della sarta, ci sono anche delle bilance intelligenti che ci permettono di conoscere la composizione del nostro peso. Si collegano a smartphone, a PC. Lei li consiglia, dottor Gualerzi, a chi nel caso? Beh, innanzitutto prendersi cura di se stessi e anche avere curiosità è sempre ben accetto, quindi lo consiglio un po' a tutti, ma soprattutto a quelli che vogliono entrare nel merito del proprio peso, cioè sapere ad esempio se tratteniamo molti liquidi, quindi abbiamo troppo liquidi addosso, o abbiamo troppo poco grasso o troppo grasso, o qual è la percentuale dei muscoli. Questi dati servono per capire dove bisogna agire e come bisogna agire, perché le strategie logicamente sono diverse. Queste nuove tecnologie sono davvero molto stimolanti, dottor Gualerzi. Io racconto gli affari miei come facciamo sempre con i nostri ascoltatori. Sono anche un po' crudeli. Esatto, per studiare alcune intolleranze che ho, io sono andata dal dottor Speciani, che è frequentemente nostro ospite, mi ha pesato sopra una di queste bilance. Io non avrei mai immaginato che dalla lettura della pianta del piede la bilancia potesse individuare qual è la massa grassa e quella muscolare che io ho in corpo. Come fanno? Beh, ci sono, vengono emesse, c'è diciamo un segreto. Delle... C'è un segreto? Sì. C'è un segreto, diciamo che vengono emesse delle piccole, diciamo, correnti elettriche intercettibili, e sapendo che il grasso, l'acqua e il muscolo hanno delle penetrazioni diverse di questa corrente elettrica che viene poi rifratta, si riesce a capire quant'è la sommatoria in base alla rifrazione dell'acqua o del grasso o del muscolo appunto all'interno del nostro corpo. Quindi sono assolutamente attendibili? Sì. Ce ne sono di più attendibili, di meno attendibili, logicamente come tutte le cose, più sono costose, più sono sofisticate, più sono attendibili, ma il principio è sempre lo stesso. Insomma, il piede parla, dottor Gualerzi, sì, il piede racconta. Adesso che siamo informati, ci siamo tutti misurati, però potete continuare naturalmente a chiamarci o a scriverci, i nostri numeri sono a vostra disposizione. Cerchiamo di capire concretamente, perché a Cuore Denari vogliamo essere pratici, che cosa possiamo fare per aumentare la massa muscolare e ridurre invece la massa grassa. Questo è uno sforzo che comunque vale la pena di fare, perché come abbiamo detto tante volte, aumentare la massa muscolare ha numerosi vantaggi, non solo dal punto di vista estetico, ma anche proprio della salute, dottor Gualerzi. È, come si dice, un investimento nel medio, nel breve, c'è la prova costume, ma nel medio e anche nel lungo periodo, perché ci aiuta anche ad aumentare proprio la nostra qualità di vita anche nel tempo e a mantenerla a lungo. Sì, diciamo che un vero e proprio investimento anche è un business, perché chi ha più massa muscolare, quindi chi si adopera per avere una massa migliore, ha più salute, più successo, perché riesce a combattere l'ansia e lo stress ed è in grado anche di focalizzare meglio i propri problemi e quindi di risolverli. Quindi è un investimento. In più sappiamo che la massa magra correla direttamente col metabolismo basale, quindi ci permette di bruciare anche quando siamo seduti. Più muscoli abbiamo, più si innalza il metabolismo basale. Infine va a contrastare la massa muscolare, quella degenerazione osteoarticolare che conosciamo sotto il nome di osteoporosi ed artrosi, che sfigge molte persone. Una buona massa muscolare fa restare più sane le articolazioni e le ossa. Dottor Gualerzi, abbiamo Antonio, ci chiama dalla provincia di Treviso. Eccolo qua con noi, buongiorno Antonio. A cui dopo facciamo lanciare il giornale radio, chiaramente. Certo, ormai, perché noi qua vi facciamo lavorare. Antonio, sì. Ci racconti? Sento. Antonio, allora facciamo così. Oggi con le telefonate non allora, ci siamo. Allora, lei ci lanci il GR e poi ritorna subito dopo con noi. Bada. Giornale orario. Che poi giornale radio, ma va bene così. Andiamo e ritorniamo subito dopo col dottor Gualerzi. Cuore e denari. Adesso giustizia sarà fatta, Bruto. Non appena Braccio di Ferro avrà mangiato gli spinaci. Grazie, Olivia. Ne avevo veramente bisogno. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale, e certe volte anche alla sfiga. Ed eccoci tornati insieme, BMI oppure MAC, è giusto? Misura circo MCA, misura circonferenza addominale. Ho invertito. Ti interroghi da sola? Sì, perché il dottor Gualerzi è lì e non mi aiuta. Dottor Gualerzi, buongiorno. No, ha ragione Deborah, era sbagliato. Eh sì, ma veramente me lo sono già detto da solo. Ah, ok. Però dico che lei non mi aiuta, invece deve aiutare i nostri ascoltatori che molto spesso si mettono a dieta, si ammazzano anche di fatica facendo, andando in palestra, andando a correre e non vedono i risultati. Evidentemente sbagliano qualcosa e questo è il momento giusto per capirlo. Quindi se siete a dieta, se fate attività fisica e non vedete calare o migliorare il vostro apparato muscolare, chiamateci. Ma evidentemente, dottor Gualerzi, non tengono in considerazione alcuni fattori che remano contro il nostro progetto di remise en forme. Uno tra tutti, e il primo che mettiamo nella nostra lista, è lo stress. Sì, lo stress è veramente nemico dei muscoli, del metabolismo e della crescita muscolare. Invece lo stress fa appunto aumentare il grasso. Però attenzione, perché visto che lo stress lo mettiamo dappertutto, lo stress di cui stiamo parlando non è solamente quello lavorativo, ma anche quello derivato dal troppo allenamento, quindi dalla troppa perseveranza. Infatti allenarsi troppo senza avere le giuste pause ha sul muscolo un effetto simile a quello dello stress sociale, cioè fa aumentare il cortisolo, che è quell'ormone appunto che va, l'ormone dello stress, che va a inibire quegli altri ormoni, tipo quelli sessuali come il testosterone, che rappresentano invece lo stimolo principale per lo sviluppo muscolare. Quindi a volte sapersi riposare aiuta molto di più che allenarsi in modo strenuo a far venire o comunque a far tonificare i muscoli. Quando l'allenamento diventa eccessivo e arriva a produrre questi effetti che sono contrari rispetto a quelli che si vogliono ottenere? Beh, lo stress ci anestetizza, quindi quando appunto ci alleniamo e non sentiamo né la fatica o comunque non abbiamo nemmeno più bisogno di riposarci, vuol dire che non stiamo sviluppando il nostro muscolo. Quindi sarebbe bene ogni volta che ci alleniamo percepire la fatica che ci fa e ci induce al riposo il giorno dopo. Quando invece ci alleniamo è come se niente fosse, spesso stiamo sbagliando qualcosa, ci alleniamo male o siamo in overtraining. Ma pensa, uno pensa di essere allenato invece di aver superato ogni barriera, ogni ostacolo, incredibile. Quante cose che scopriamo a cuore denari. L'altro, abbiamo anche gli ascoltatori che ci aspettano, sì. Ornella da Cremona, Simone dalla provincia di Perugia, ma voglio sottolineare brevemente gli altri tre fattori che remano contro la nostra, il potenziamento dei nostri muscoli. Il secondo è il sonno. Abbiamo detto tante volte che la carenza di sonno è correlata ad indesiderabili alterazioni dell'attività metabolica. Insomma, dottor Gualerzi, chi dorme non piglia pesci, ma chi non dorme si inflaccidisce, possiamo dire così? Sì, bisogna dormire bene, soprattutto nelle prime ore della sera, quando appunto si stimolano gli ormoni che ci aiutano a migliorare il nostro metabolismo e i nostri muscoli, e cercare di bonificare dalla notte di tutti quei disturbi come russare, l'apnea, che determinano un blocco della produzione di il principe degli ormoni anabolici, cioè il GH, il growth hormone, l'ormone della gioventù, della crescita, della lipolisi, cioè quello che fa bruciare il grasso e che fa aumentare invece la massa muscolare. Andiamo al terzo fattore, che è il sale. Chi è abituato ad aggiungere nei piatti o mangiare cibi che lo contengono, per esempio quelli in scatola, i salumi, gli insaccati, il dado da brodo, le minestre pronte, è molto più soggetto a un cattivo drenaggio dei liquidi. Sì, non ci si rende conto, ma in realtà il sale è veramente il nemico numero uno e lo usiamo senza rendercene conto, anche 12 grammi al giorno, ne dovremmo mangiare 5. Siamo nati e abbiamo vissuto milioni di anni in un ambiente senza sale, questi decenni, questi ultimi centinaia di anni dove la rivoluzione industriale ce l'ha messo dappertutto, non ha trovato il giusto, diciamo, dinamica nel nostro organismo che non è ritornato, non è capace di eliminare questa quantità di sale. Tratteniamo liquidi, tratteniamo sale, ci gonfiamo, questo è ancora più vero per le donne in menopausa che quando hanno un calo degli estrogeni, ricordiamo che gli estrogeni aiutano ad eliminare il sale, hanno appunto, si sentono sempre più gonfi, aumenta la cellulite e questo determina appunto una riduzione della massa magra in favore di quella grassa e un aumento progressivo della perdita anche della forza. Dottor Gualerzi, prima di passare proprio ai consigli mirati e pratici, dovete anche dirci però dove accumulate il grasso, se siete costituzione di tipo mela, quindi grasso addominale o pera, fianchi e cosce. Andiamo al quarto fattore, non certo in ordine di importanza, che può ostacolare la trasformazione del grasso in muscoli, è il consumo eccessivo di proteine animali. Chi per perdere peso rapidamente si affida a diete ad alto contenuto proteico, sappia che, dottor Gualerzi, sì, non si fa del bene innanzitutto. Bravo. Quindi diciamo che queste sono misure un po' specchietti per l'allodole. Diciamo che indubbiamente le proteine aiutano la crescita muscolare, senza le proteine non c'è nemmeno il muscolo, ma quando diciamo esageriamo questo finisce per danneggiare tra gli organi più nobili del nostro organismo, che sono i reni, e appunto il sovraccarico proteico danneggia i reni quando sono danneggiati perdono proteine, finiscono a perderne molto di più rispetto a quelle che riusciamo a mangiare. Quindi bisogna prendere proteine ma in misura giusta, e soprattutto non ricorrere solo alle proteine di origine animale ma anche quelle di origine vegetale, che sono più neutre e più salutari appunto sui reni. Quindi se siete stressati, insonni, se la vostra dieta è salata o troppo ricca di proteine animali, chiamateci 800 24 00 24 e aggiungete anche dove si distribuisce il vostro grasso, se siete forti di pancia o forti di coscia. Io sono forte di coscia e tu lo sai perché mi vedi tutti i giorni, per fortuna che ce l'ho un tantino alta, almeno si distribuisce un po' meglio. Dottor Gualersi, mi ha stimolato molto, e vedo che è successo anche tra gli ascoltatori, il discorso che ha fatto prima sull'eccessivo allenamento sportivo e quando questo diventa controproducente. Giovanni da Parma ci scrive una mail a cuoredenari@radio24.it. È da un paio di mesi che mi alleno 8 volte a settimana, ma non ho perso neanche 1 chilogrammo. Come mai? Intanto mi piacerebbe capire come concepisce questo allenamento in una settimana, 7 giorni, 8 volte, in certi giorni va 2 volte al giorno, una volta non so farà piscina, una volta corre, una volta allenamento con i pesi, ma insomma i nostri conti non tornano. Esatto, però magari, ma la domanda è interessante. Esagerando, magari ha aumentato il tono muscolare che pesa di più, qualche volta noi questa trasformazione non riusciamo a concepirla. Sì, no, sul peso indubbiamente il muscolo pesa di più del grasso, quindi se uno si pesa e basta, non fa ad esempio il body mass index o non fa la circonferenza ombelicale, spesso si allena e pensa di non essere dimagrito, ma in realtà ha perso massa grassa. In realtà è quello, se una persona non è uno sportivo agonista, e magari Giovanni non lo è, si allena 8 volte alla settimana, alla domenica 2, e poi va a lavorare. Immaginiamo cosa succede all'organismo allenandosi tutti i giorni e poi andando a lavorare, non ha mai una tregua, non ha mai riposo. Ricordiamo che la vera crescita muscolare, il vero aumento del metabolismo, l'ottimizzazione di ciò che facciamo durante l'allenamento lo abbiamo il giorno di riposo. Quindi tenete conto che se non ci riposiamo mai, obiettivamente non diamo modo nemmeno all'organismo di migliorare, di implementare, di trasformarsi, perché certo. Lo mettiamo sempre sotto battuta. E quindi diciamo che è sbagliato. Nessuno, non conoscerete nessun atleta agonista, nemmeno tra i professionisti, che si allenano 2 volte al giorno, tutti i giorni. Anzi, agli atleti viene detto di andare a letto presto, di riposarsi, sì, di stare tranquilli, perché è fondamentale. E noi vogliamo fare come gli atleti e quindi abbiamo bisogno dei consigli del dottor Gualersi. Continuate a chiamarci 800 24 00 24 per avere anche dei consigli mirati. Ornella che ci chiama da Cremona, buongiorno. Pronto? Ornella, buongiorno, siamo arrivati da lei, benvenuta. Buongiorno, pensavo di essere rimasta fuori. Buongiorno, io avevo chiamato perché io non sono una sportiva, premetto. Sì. Sport in realtà non l'ho mai praticato. Non vi frequentate, insomma. Pronto? Sì, Ornella. Ho imparato, sì, diciamo, a nuotare, e diciamo è una cosa che mi fa bene anche fisicamente, perché purtroppo ogni esercizio che faccio in palestra mi fa i muscoli. Però Ornella, il suo problema, mi scusi, abbiamo tantissimi ascoltatori. Vada. Dunque io ho 88 nel punto dove dite voi, sì, e io sono 1,60 di altezza e peso 1,5 kg. Sì, mi piace quel mezzo. Ho 64 anni, però devo dire ho sviluppato questa pancia che questa pancia non va giù, e dottor Gualersi, molto spesso noi donne, soprattutto dopo la menopausa, cambiamo proprio costituzione. Ornella ci ha dato i suoi numeri, ma il suo problema rimane la pancia. Quando il problema è lì, proprio sulla pancia, che cosa dobbiamo pensare e cosa possiamo fare? Noi sappiamo che bisogna abbinare alimentazione e attività fisica, ma forse possiamo calibrarli in modo più preciso, dottore. Sì, ridiamo i consigli giusti per la pancia, nel senso che l'indicazione è quella di tenere in termini tecnici bassa l'insulina e il cortisolo, quindi quello che praticamente dobbiamo fare è dire no a tutti i carboidrati, cioè gli zuccheri raffinati, mentre abbondare di carboidrati integrali, quindi tutti i cereali ad esempio sono ben accetti, che sono ricchi anche di proteine appunto vegetali. aumentare un po' la dose di proteine magre, ma anche di pesce azzurro in testa, direi, e eliminare il più possibile tutti i grassi saturi, tipo quelli che troviamo nel burro, nei formaggi, nel latte, ma anche quelli che derivano dai tagli di carne grassa, quindi sia la carne anche rossa, a patto che sia di taglio magro, sì. E diciamo invece favorendo il più possibile i grassi insaturi, come l'olio di lino, l'olio di oliva, quello appunto nel pesce azzurro. E poi c'è da fare, ahimè, ma diciamo che poi la cosa più importante, molta attività aerobica. A media, attenzione bene, a media, non ad alta ma nemmeno a bassa intensità. Cosa vuol dire media? L'abbiamo detto già tante volte, circa un 60-70% del proprio limite. Quindi camminare troppo poco, correre forse troppo, una buona camminata in salita è quello che fa bene, almeno per 40 minuti insieme alla dieta, per far scendere la pancia. Quindi queste sono le indicazioni per buttare giù la pancia, che troverete anche ritagliate sul nostro sito. Andiamo dove ti piace andare, a Milano che c'è Silvia, o nella provincia di Perugia per Simone? Guarda, solamente per diritto di precedenza che chiamo Simone, anche se poi voglio dare spazio a Silvia che è una neomamma, per cui sono molto sensibile, anche se non lo sono, alla situazione delle mammine fresche. Perché noi stiamo aspettando il nipote di Cuore Denari, il terzo nipote di Cuore Denari, Simone, dalla provincia, buongiorno, di Perugia. Faccio molto velocemente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti e al professore. Senti, io riguardo al BMI volevo dire che è un index interessante, perché comunque c'è il rapporto di altezza e peso e quindi scientificamente secondo me è un dato assolutamente esatto. Per la circonferenza addominale invece, dottore, volevo chiederle il fatto che non si tenga comunque in considerazione l'altezza ma solo la circonferenza, una persona che può essere alta 2 metri come uno che può essere alto 1,60, non è un pochino poco attendibile? Grazie. Grazie. Bella domanda quella di Simone. Insomma, alla pancia, quello alto 1,90 come quello alto 1,32. Dottor Gualerzi, questa pancia, questi numeri della pancia, ci piacciono? Sono corretti? Oppure ha ragione Simone che insomma anche l'altezza dice la sua? D'altronde altezza e mezza bellezza. Diciamo che il diametro in quel punto varia poco al variare dell'altezza, quindi è stato proprio scelto quel punto. In realtà esistono delle classifiche, delle tabelle di normalizzazione in funzione anche dell'altezza, queste valgono più per i bambini, dove c'è una correzione in base all'altezza. È vero che in realtà c'è anche una giusto delta di normalità nella circonferenza ombelicale che rende giustizia anche per quelli più alti. Resta un metro molto attendibile, anche se anche questo può avere dei difetti come quelli appunto evidenziati adesso. A proposito di centimetro, resta un metro. Vogliamo andare a Silvia? Buongiorno Silvia, buongiorno. Buongiorno. Neomamma di chi intanto? Neomamma di Lorenzo da 11 mesi. Oh, amore, quasi un anno quindi? Scusi? Ha quasi un anno quindi. Sì, quasi un anno. Tra poco cammina. Sì, esatto, quindi forse la mia domanda arriva un po' tardi, nel senso che dopo 11 mesi, ahimè, è magari troppo tardi per farla, ma mi preparo per il secondo figlio magari. Brava Silvia. La pancera, allora l'ostetrica postparto, quindi la ostetrica mi diceva no, la mamma mi diceva sì, la nonna mi diceva no, la bisnonna diceva sì, io non ho fatto niente e la pancia è rimasta. Avrei dovuto usare la pancera oppure dipende solo dal fatto che mangio? Ecco, va bene. Dottor Gualerzi, consigli, apriamo uno spazietto, consigli per le neomamme che hanno messo o non messo la pancera. Lei che cosa avrebbe suggerito se fosse stato il marito di Silvia, marito medico? Di non metterla, che non ci sono evidenze che il fatto di metterla aiuti più di tanto. In realtà molto spesso la pancia che rimane può essere legata a una parziale lesione dei muscoli addominali che durante sia la manovra del parto sia per lo sfiancamento legati appunto alla gravidanza stessa perdono un po' di compattezza, quindi permettono agli visceri di fuoriuscire un po', ma facendo una buona attività fisica diciamo che la massa muscolare si ritempra e quindi dovrebbe ritornare, a meno che non c'è sviluppato il grasso viscerale, ma durante la gravidanza il grasso viscerale non si forma, quindi la nostra radioascoltatrice avrà la possibilità di tornare con la pancia normale facendo un pochino più di addominali e un pochino più di attività fisica. Quindi per Silvia valgono le stesse raccomandazioni spiegazione che lei ha dato per la nostra ascoltatrice che aveva un problema di pancia, quindi eliminare un po' il cibo spazzatura e fare i 40 minuti di attività aerobica, quindi una buona passeggiata a intensità media 60-70. In questo caso anche tonificare un po' i muscoli, perché logicamente dopo la gravidanza i muscoli addominali ne escono un pochino, diciamo, malconci. Abbiamo Damiano, buongiorno. Buongiorno, allora domanda velocissima, ieri ho fatto una visita specialistica per quanto riguarda la massa corporea e sono 1,78 per 71 kg, massa muscolare di circa 35 kg e massa grassa di 10, ho un BMI di 22,5. Volevo sapere che cosa potevo fare semplicemente per aumentare un pochino la massa muscolare. Allora, intanto, dottor Gualerzi, ci piace Damiano? Sì, direi che è perfetto. Per quanto riguarda la massa grassa è quasi da antagonista, diciamo, sotto i 10 sono solamente. Quindi vedi, e noi ce lo portiamo a casa, cioè mettiamolo lì. Sì. Lui vuole sviluppare un pochino i muscoli, allora l'ideale è non farsi prendere troppo dalla fretta e voler ottenere tutto subito come spesso succede nelle diete, ma lavorando bene in palestra, quindi facendo potenziamento muscolare, utilizzando un pochino più pesi pesanti, facendo meno ripetute e seguendo i consigli alimentari che abbiamo appena dati, con calma metterà su muscoli. Ecco, un consiglio, non tutti siamo propensi o abbiamo le caratteristiche proprio biologiche intrinseche per diventare degli Schwarzenegger, quindi la massa muscolare, anche questa è abbastanza geneticamente determinata, si può modificare, ma rimanendo nel lecito no, più di tanto non si può trasformare, quindi la cosa bella su qualche chilo, ma non potrà diventare Schwarzenegger. Bisogna accettarsi, è coltivarsi ed accettarsi. Fate una trasmissione sulle bacche di goji, sullo zenzero e sulla curcuma, ci scrive Carlo. La faremo. Dottor Gualerzi, prenotato. Grazie, no, stavo pensando alla Costituzione, che tante lotte non si possono fare, io la caviglia sottile non ce l'avrò mai come quella di Nicoletta, punto. Cuore, denari, vitali, completate gli incipit che trovate sul sito di Radio 24, sulla pagina di Cuore e Denari. Per il racconto di cuore la parola che dovete inserire è... sedia. Per il racconto di denari, completando il racconto, dovete inserire la parola elettrodomestico. Avete tempo fino a mezzanotte di stasera. Voilà. A domani. Cuore e denari.